vesto di getto, mentre il mio cuore si è spento, mi resta solamente l'ultimo colpo in canna. Mentre sto chiuso in camera, la città fuori fa festa, alzo questo revolver e me lo punto in testa. Combatto il male per sembrare un po' più forte, vedere il mare chiuso dentro le tue forme. Con la mente volo fino sopra Marte, io che sono un disastro e torno per adarte. Tempo al tempo siamo cresciuti contro il maltempo, insieme siamo sopravvissuti. Ora son certo che avrei bisogno dei tuoi aiuti. Era un passatempo e ora passano i minuti, ah. Senza te, senza me, senza lei, solo con un testo dico quello che vorrei. Senza se, senza ma e senza oh, il poco che ricevo fanno quello che io do, ah. Mi vedo distratto, fatto fino a non sentire il tatto. Per vederti con un altro giuro che divento matto. I tuoi occhi, i miei mondi, ti prometto che da domani saranno altri giorni. Altri giorni in cui l'aria è gelida, altri giorni in cui fuori nevica, altri giorni dove farà caldo, ti chiamo e non c'è campo, baby, amo il tuo sguardo. Qualcuno come te, che ami me quanto il rap, qualcuno come te, che ami me, quello che mi resta di te. Tracci l'asfalto come una skyline, è quello che t'ho fatto, che non ti ho detto mai, che non mi trovi adatto, perché ancora non lo sai cosa ho fatto per te, baby, non lo farò mai. Cuore chiuso in delle catene, il mazzo di chiavi che ti appartiene. Chiudo le porte non perché sono stronzo, ma perché ho imparato a volermi bene. Getto le pare dentro questo bicchiere, lo penso a riempire, poi subito bere l'amore che non batte in tele. Ma quali leoni, tu chiamaci iene. Prima ero fatto di sogni, di emozioni, ma fatti di carta. Ora ne faccio un'altra, sono fatta e basta. Basta pensarti, basta gli sguardi, basta pensare che sei meno degli altri. Basti pensare che se sei con me siamo l'invidia degli altri, uh-huh. Non hai capelli biondi, ma mi porti rimorsi dentro mille suoni. Sogno tempi migliori e ti prego passa. Se ti trovi nei dintorni ti prometto che da quel giorno saranno altri giorni. Altri giorni in cui l'aria è gelida, altri giorni in cui fuori nevica, altri giorni dove farà caldo, ti chiamo e non c'è campo, baby, amo il tuo sguardo. Qualcuno come te, che ami me quanto il rap, qualcuno come te, che ami me, quello che mi resta di te.